Mica per te ma piace o suona, non ci riusciamo mai perché bocca cava se non è buona, non so sti poco in è. Pure te chiama e non risponde, per fare spietà a me. T'anima già così, anima e cora, non ce la siamo più, manca un'ora. Sto desiderio te mi fa paura, campo con te, sempre con te, per non morire. Che c'è di cima fa parola amare, se ho bene può campare con un respiro. Forse sarà cocchiante e dolce, forse sarà che bene fa, quando mi sento più felice, non è felicità, specie se è foto tu marisce, distratta verità. Tenimmi già così, anima e cuore, non ce la siamo più, manca un'ora. Sto desiderio te mi fa paura, campo con te, sempre con te, per non morire. Che c'è di cima fa parola amara, se ho bene può campare con un respiro. Dove mai tenuta stretta stretta accanto a te. Tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti. I love you. D'ancella sta compagna vostra, c'aggio perduto suona a fantasia, ca penso sempre che è tutta vita mia in ciò volesse ricere, ma non ci ho saci di a voglio bene assai, dici d'ancella buia che non mi ascolta mai. Cella che è una rosa e maccia, che assai più bella una giornata e sole. Bravo casoia, più fresca e viola, e già volesse sentire che è innamorata di me. bellezza mai è. Suona gentile, sospira mia carnale, te cerca con malaria, te voglio per campare. Mille paure. Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, io me ne mora così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire. Ma perché, dillo, una volta sola, si pure tu stai tremando, e dillo che me vuoi bene, che mia, che mia voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, è così grande. Sicuro tu te senti morì, non mi dice e non mi fai. capi, ma perché innamora sola, si pur tu sai tremando, e dille che me va bene, che mi voglio bene a te. Da te, perché quando mi guarda così, sicuro tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? questa estate senza te. Si avesse fatta nata, quella che fatta a me, stomma d'avesse accisa, e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra, femmina come te, non c'è una sta nome onesta come me. Femmina, tu si nama la femmina, chi sto occhi è fatto chiagnere, lacrime infamità. Femmina, sei tu peggio una vipera, mentre segata l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come lo zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella, femmina, ti voglio bene e t'odio, non te posso scordare. Ti voglio ancora bene e tu non sai perché. E tu per un capriccio tutto è distrutto in me, ma Dio non ti perdona quello che hai fatto a me. Femmina, tu si nama la femmina, che sto occhi è fatto chiagnerà, lacrime infamità. Femmina, se tu pece una vipera, mentre segata l'anima, non posso più campare. Serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella, femmina, te voglio bene e t'odio, non te posso scordare. Ti da da vente vecchio appuntamento a gettenuta. Tante più sigarette già picciate. Ho capito che ti amo. Più forte l'onda quando ce l'è scura. notte. Scrivo mezza treguata chantosa e parlavo francese così. Fui l'autriera che ha già incontrata, fui l'autriera tu l'hai ignorsi, t'ha giù voluta bene. Lui campava me vase e cavase, tu cantava e chiagniva per me, io gardilla cantava guttiga, reginella va bene a stu re, t'ha giù voluta bene a te, tu m'hai voluta bene. Sera non ho vira già aperta caiola, reginella è volata tu vola, vola e canta non chiagnaracca, ti ha trovato una padrona sincera che è più degna sentirte cantare, t'ha giù voluta bene. Cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al ciel, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a una. Perduta e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattiva come adesso non lo sono stata mai, e quando mezzanotte viene se davvero mi vuoi bene pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, ma non vorrei che tu a mezzanotte tre dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattiva come adesso non lo sono stata mai, ma quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Nella vita io ci credo davvero, dirtelo per gioco non sarebbe sincero. Se questa estate è come un libro aperto che ci divide, è che ci abbiamo due vite, ma l'anima è nella stessa pagina. Ci sono i fiori, i cuori e le stelle intorno ai nostri due nomi. E qualunque cosa fai, ovunque sei, ogni notte a mezzanotte guarda il cielo come me. E ti penso e oltre all'empatia vorrei la telepatia. E lo vedi come bella la luna sulla città. Vorrei averla fatta io per regalartela. E ogni volta che la guardo ti dico ti amo e mi sento innamorato pazzo come Celentano. Vorrei dipingerti l'amore su una tela, ma il mio cuore è come in una ragnatela. Vorrei che fossimo vicini ovunque siamo e non così lontano da non darci la mano, yeah. Special Virgin Maraviglia, Chico di Congo, One Love. Thank you.

perché, perché ogni sera pensa a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Fontanelle, Capemonte, chi sto cuore ma se schianta quando sente rire la gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché? Dice che ha perso pure chi lulla. Monastere Santa Chiara, chiuse dentro a quattro mura. Quanta femmina sincera si perdeva nell'amore, si sposava a Gesù. Fontanelle, Capemonte, verde già ne tene la dicente che una femmina innocente dice gente non c'è più.

bella cosa è una giornata sola, un'aria serena, roba una tempesta, pall'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa è una giornata sola, ma nato sole più bello in me. Oh sole mio, sta in fronte a te. Cercando le parole che lui non sa trovare.

tutti dormono, ma io che vuoi dormire, pensa a nena mia, ma senta sciuli li quarto d'ora sonana a una, due, a tre, io te voglio ben assai e tu non pensa a me, io te voglio ben assai e tu non pensa a me. Ricordate Paris. Mondo. Camicetta fiore blu, può fa signorinella, non sa scuola pure tu. Ti piglia sigaretta quando accatta per papà, ti metti già russetta come vire fa mamma. Lazzare, ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più, e venga posta per tutti vicino a scuola ro Gesù. Tu invece mi risponde già, gli deve proprio da te, per me lavora e può aspettare che una giovane fa per me. Ah, Lazzarella, ventata primavera, quando passi tutte le mattine, già te spiechi dentro le vetrine, solo un complimento te fa vampa. Ma Lazzarella con sì, non mi pianta proprio a me, e ride come fa capire che perdo tempo appresso a te. Studente, non fa scuola, ro Gesù, te fa sempre più stretta, camicetta fiore blu, te pigli quattro schiaffe tutte le volte che papà, ti trovano un biglietto che te scrive che l'ho là, Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, ci sei caduta pure tu, l'amore non te fa mangiare, te fa soffrire, te fa pensare, la sera tu le dici no, la sera tu le dice ma se non vaso te da fai segni sì senza parlare. Ah, Lazzarella, o tempo come vola, mo le trovi tutte mattine, chi ne lacrime sto cuscine, manca una compagnella te può aiutare. Ma Lazzarella come sì, te sei cagnata pure tu, e te preparati sto sì, ma rinta a chiesa ro Gesù. Tu ne cagare te, tu ne cagare la te, ma la sorella con Massi, tu non mi pensa proprio a me, e rire come fa capica, perdo tempo appresso a te. Ma Lazzarella come sì, ti sei cagnata pure tu, e ti prepari a disto sì, ma rinda a chiesa ro Gesù. Daga daga da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. È vierna e chiova chiova una settimana, e sta qua sai più triste ma mantena, che fritta quando è a sera che mi viene, con stare neve mo che manca tu, sta freva che manchesse mi abbandona, sta freva con le nuzze leva più. Te fai vedere, te stai lontano e non te cura me. Che mamma ha picciò fuoco tutta sera, rinta sta camera la fredda e amara, ma che la picciò fa vecchia mia cara, se non mi scarpa manca in braccio a te, povera vecchia mia. mi fa paura. E l'ombra che si muove attorno a me. Vai per te. Tu stai lontano e non ti cura me. Fai vedere, tu stai lontano e non ti cura me. Sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te, poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Guardandoti negli occhi, sapessi dirti Tiene a mente sta palomma, come gira e come vota, come torna nata vota, sta girogena tanta. Palomma che sta in un lume, non è roso ci summina, e tua forza che avvicina te vuoi mettere a volare. Vattene a loca, vattene a pazzarella, va palume e torna staria così fresca e bella. Shamana, padana vule caccia, caro lip nu capriccia, tu fai scontenta nata, e po' quando l'è lassata, tu adunata vuoi vula, troppi cori stai strignendo, custi mana paccerella. Casti scelle, pure tu ti può bruciare. Vattene loca, vattene pazzarella, va palume le torna, e torna staria così fresca e bella. Shamana, padana vule caccia, torna e va palomme notte, tinta l'ombra dosinnata, torna a stare in barzamata, cata sabe consula, dindo scure per me sulla, spaga nell'ardessa struia. Tutte e due non lo posso sopportare. Vattene loca, vattene pazzarella, va palume le torna, e torna staria così fresca e bella. Oh figa e pura, ma baglia chiano chiana, ma brucia mana, padana vule caccia. E falla innamorata. So che tu, so che tu, so che tu, so che tu non tornerai, non tornerai, so che tu non tornerai. Come ti E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non serve la stessa dose, non serve la stessa dose. Vuoi sapere che non c'è ma tette, vuoi sapere che non c'è ma tette, ma te ricca tutte cose, ma te ricca tutte cose. Sì, io lo so. Let's get it over, yeah. Don't worry about the things, baby. Listen to my voice, looking for the sun, sugar. Fly with the birds. Don't worry about the things, yeah. Oh. Son con usta en marred, me hago un pulella ca ti si era izada. Passa scampaniana per tu led, come un guapo per te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta mai chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, fotte senza disturba. Tu abballa un rock and roll, tu giochi a baseball, ma è sordo pecca a me. Chi te li dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nata in Italia, senta me non c'è sta niente a fa. Oh, che napolitan. Chi te va bene se tu le parli mezza americana, quando si fa l'amore sotto la luna come deve in capelli I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senza mai chi te fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda forte senza disturba. Tu abballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma è sordo il pecca a me. Chi te li dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta me non c'è sta niente a fa. Ok, napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me e mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così sei pure tu ti senti morire, tu non mi dici e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, si pure tu stai tremando, dillo che mi vuoi bene. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, a così grande. Niente morì, tu non mi dici e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, si pure tu stai tremando, dillo che mi vuoi bene. Con mia, con mia. cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande. Bell'aria fresca, cadore malva rosa, e tu l'urmen stai, goppa sti fronne rosa. Oh, sola poca poca, per sto giardino sponta, e o vien passe passa sturicciuli l'fronta, e te vorria vassa, io te vorria vassa, ma o coro non mo dice ed asciata ed asciata. Vicino c'è mentre io guardo incantata sto muso corallina e che sti carne fresca e che sti trezza nera ma mettono in to ora mille mala pensiera. Io te vorria passà, io te vorria passà, ma il cuore non mi dice e te scetà, e te scetà. Io me vorria dormì, me vorria a dormì vicino c'ha Nora puri, Nora puri. Sente sto cuore tuoia che sbatte come malonna dormen, angelo mio, chissà tu a chi suona a gelosia tormenta sto cuore mio malata tu suona a me rimella oppure suona nata io te vorria passà io te vorria vicino già da noi Nora puri Nora puri più lontana mi stai più vicina ti sento chissà chi sto momento tu a che pensa che fai tu me mi sente vena non volena che doccia non mi pesa sta croce che trascina per te te voglio te penso ti chiama, ti vega, ti sente, ti sogna e no, non c'è vienza che n'anna che sto occhio non ponna più pace non può donna più pace trovare. Trovare